abbiamo riso e scherzato tanto, ma ora registriamo. Giù, vai. 1, 2, 3. Julian Carax inizia, due. Dai. 1, 2, 3. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in centro storico a Montevarchi, ringraziando Stefano Neri che ci concede questi spazi. Fumino, io il copione l'ho recitato tutto come di consuetudine. Che abbiamo stasera? Stasera, come mio copione, abbiamo un ospite molto importante nel tessuto sociale montevarchino, e perché comunque è un tifoso del Montevarchi da tempi immemori, e quindi chissà quanti aneddoti potrà raccontarci stasera. È addirittura un opinion leader, o forse, per dirla in maniera più contemporanea, è un influencer del Montevarchi, della montevarchinità. E siccome il nostro programma si prefigge la ricerca della montevarchinità, diamo il benvenuto a Dimitri Lepri, ma non senza prima ringraziare il nostro regista di stasera, famosissimo per il suo albero degli zoccoli, Ermanno Olmi. Buonasera a Dimitri. Buonasera, grazie. Bene Dimitri, inizio io, è una domanda di rito per le persone che seguono la squadra da una vita. Com'è che è iniziata la passione per Montevarchi? Ti ricordi la prima partita, le origini, e quanti anni sono che segui la maglia rossoblu? I primi ricordi sono dai primi anni 80, qualche apparizione. Io diciamo, ho delle vaghe immagini che le curve le ho viste fare. Si parla del 79, poi di presenze fisse, ecco, diciamo dal campionato 82-83, l'anno prima, credo uno tra gli anni più belli, credo, dell'83-84, che vincemmo Coppa Italia e campionato. L'anno prima arrivammo secondi, se non mi sbaglio, e da lì poi, come tutti, insomma, allo stadio, portato da il babbo, anche lui tifosissimo ancora oggi, e da lì è nata tutta la storia. E invece Dimitri, una delle mie domande classiche, come Julian ti ha fatto la sua più tecnica, io ti faccio una domanda più emozionale: come era Montevarchi quando tu eri un quindicenne che più o meno iniziava a seguire la squadra? Quindi come era l'approccio allo stadio? Che tipo di persone c'erano rispetto a oggi? Innanzitutto allo stadio ci venivano molte più gente, ecco. Io mi ricordo quando cominciai assiduamente era Serie D. E diciamo allo stadio si superava le 1500, le 1500 unità si sorpassavano, ecco. Per arrivare alle più partite di cartello, ecco. I tempi sono cambiati. Non esistevano allo stadio, ecco, gabbie, settori ospiti, ecco. Mi ricordo una gradinata piena nell'85, 84, 85, piena di spezzini. E c'era spezzini e anche qualche montevarchino c'era. Fortunatamente non successe nulla, cioè se, per esempio, oggi non potrebbe succedere, io credo, ecco, dimettici tutti insieme. No, c'era molto più persone, c'era lo stadio, sì. Venivamo, ecco, in quegli anni lì, ancora dalla scia degli anni 70. Poi un pochino c'è stata una fase di stallo, ecco, la C2, 85, 86, 84, 86, ecco lì, per poi arrivare poi dopo, ecco, all'87, 88, lo spareggio d'Empoli, il campionato entusiasmante, proprio con Marchisio. C'era molta più gente, ecco, sì, metto qui sì. Anche la Montevarchi città era differente, ecco. Parlando di differenze, oggi a Montevarchi sembra che il fermento sia in crescendo rispetto magari a qualche anno fa, in cui il fermento era evidentemente in diminuendo. Ma un tifoso come te, che ha visto fasti e cose più negative, che ha visto promozioni e che ha visto anni più bui. Sì. Come ha metabolizzato appunto il periodo, diciamo intorno agli anni 2010, del fallimento per poi rivedere risalire. Ecco, in questa risalita ci vedi delle similitudini rispetto alla Montevarchi degli anni 80, oppure secondo te è una risalita differente? No, è stata una risalita differente. Parto dall'ultimo, il fallimento e tutto il resto, poi quello che è successo, è dovuto a anni di malgestione della società. Tant'è che io mi fermai nel 2000. Dunque, noi si retrocesse 2005-2006 dalla C2. 2006-2007 feci l'ultimo campionato e ci fu un episodio in cui ci doveva essere un gruppo di imprenditori che doveva acquistare l'Aquila. Saltò tutto perché Montevarchi era diventata un interesse personale, quindi ecco, non si faceva calcio. E si chiedì, sì, basta, tanto è inutile vado allo stadio, nel senso che... Per poi ripresentarmi l'ultima partita avanti il fallimento, non so se vi ricordate bene, con il Gracciano, quella fu l'ultima partita dell'Aquila, poi si interruppe, era novembre, ci si fermò e da gennaio si ricominciò con l'Audax. Ecco, io ricomincio lì, ho 5 anni di buco e forzatamente e inevitabilmente sono stato a casa, ecco. No, e gli anni della risalita, quelli dei primi anni 80-90, no, lì le retrocessioni, diciamo, non sono mai retrocessioni, diciamo, sane, oppure... Però ecco, dietro c'era comunque una società, ecco, c'erano delle società forti, nel senso, il gioco di calcio è un gioco, si contempla la promozione, ma si può contemplare anche una retrocessione, è un gioco, capito? L'importante è cascare in piedi. Se tu caschi in piedi non c'è mai paura, cioè tu risali sempre. Io con questa società io accetterei, è un parolone, però ecco, mi farei scivolare anche una retrocessione, perché tanto so che, perché capita, tu sbagli l'annata, tu sbagli tante cose, però io da questa società accetto tutto, perché so che sono imprenditori seri, persone serie, e soprattutto fanno l'interesse della città e dell'Aquila. E tra l'altro ne parlavamo nella puntata precedente proprio rispetto a questo e rispetto comunque alla programmazione, a tutto quello che è nato con la nuova società. Ora il campionato è praticamente concluso, anzi è effettivamente concluso, stiamo registrando e si è concluso ieri, quindi tu hai seguito questa stagione, ti sei fatto ovviamente un'idea, la prima stagione da ritorno in Serie D, comunque tutto sommato una salvezza con 55-56 punti, una salvezza comunque che se ce l'avessero detta a inizio anno ci si sarebbe messo la firma. Sì. Secondo te, con la stagione che abbiamo fatto, che prospettive sono più auspicabili nel giro di 2-3 anni? Quali sono effettivamente le possibilità qui a Montevarchi per un tifoso che conosce la storia? Cioè, voglio dire, è davvero realistico pensare in 5 anni di andare avanti, oppure ci sono tutta una serie di problematiche che obbligatoriamente ci lasciano qui? È giusto accontentarsi comunque della Serie D, che è comunque la quarta serie nazionale in questo momento? Io parlo da tifoso, a livello personale parlo, come sempre, non so se insomma lo leggete su Facebook, insomma ve lo scrivo anche tante bischerate. C'è delle cose un po' da mettere a posto, tipo gli impianti, tipo insomma c'è tante ancora cose da sistemare. Spero che il comune in futuro venga incontro, anche perché non scordiamoci mai che Montevarchi sì fa sport, fa calcio, ma fa del sociale anche, nel senso che ha 500 ragazzi e le strutture sono un po', cioè, sono un po' latitanti, ci sono ma non bastano, ecco. Il discorso è questo, secondo me, ecco, io se riuscissero a mettere a posto qualche cosa anche tramite anche questa amministrazione, io fo sempre il paragone, ecco, secondo me noi ora in questo momento il ferro è caldo. Io faccio sempre l'esempio dei due ciclisti in salita, che uno ha più gamba e l'altro arranca. Ecco, in Montevarchi come società, in questo momento, è il ciclista che ha più gamba, che parte. E secondo me, Teto mi ha detto in 2-3 anni, ecco, in 2-3 anni forse, io spero una, perché noi siamo un treno noi a livello societario, e spero che in due tre anni una capatina, diciamo, in C, la chiamo ancora Serie C io perché io sono all'antica, o Lega Pro, ecco, una capatina in Serie C spero di farla, ecco, secondo me sì. Sempre, non scordiamoci, la categoria di Montevarchi per i prossimi 50 anni sarà la Serie D, questo mettiamoci. Però ecco, siccome siamo di rincorsa ora, ecco, se si tirasse una volta di lungo, se ci fermasse di lungo, ecco, una patina C, l'importante, come dicevo prima, se si retrocede, tra parte la Serie C oggi ha dei costi notevoli. Se si retrocedere, di retrocedere, ecco, in piedi, ecco. Agganciandomi a questo tuo discorso che hai appena concluso, direi, siccome in Serie C, appunto, per effetto delle nuove leggi, nuove situazioni rispetto alla Serie C che ha fatto il Montevarchi negli anni 90, ci sarebbe da sistemare lo stadio, da sistemare, ma fuori dello stadio, anche solo il fatto di dover introdurre il prefiltraggio, gli tornelli e quant'altro, e sarebbe comunque un indice di lavoro extra, come sarebbe stato magari 20 anni fa, 30 anni fa. Però, Dimitri, secondo te, se a Montevarchi un po' le istituzioni, un po' la società, un po' le persone, in qualche modo, si mettessero in concerto a cercare di fare sì che, appunto, lo stadio sia uno stadio adatto anche alla categoria superiore, porterebbe giovamento alla squadra e quindi ai risultati che la domenica si conseguono in campo, oppure no? Uno stadio nuovo, parli? Parlo di uno strutture. Stadio nuovo, ma anche fatto magari in maniera differente, con gli spalti più vicini al campo di gioco e quant'altro. Il nostro stadio è uno stadio abbastanza fatiscente, cioè, lasciando stare gli effetti personali e d'amore verso lo stadio e la squadra, il nostro stadio, diciamo, è antico, medievale, in tribuna piove, non vedi niente. È uno stadio passato. Anni fa ci fu un progetto di una vecchia amministrazione di farlo verso l'ospedale. No, lo stadio va buttato giù questo. Siccome ho saputo anche che la tribuna aperta per anni ci hanno raccontato che era delle belle arti. No, si può buttare giù. La tribuna si può buttare giù. Me l'hanno detto. Quindi, rifare lo stadio lì, buttare giù tutto e fare uno stadio all'inglese. Il Montevarchi non ha bisogno di uno Juventus Stadium, ha bisogno di uno stadio per il Montevarchi. 4-5 mila posti bastano, avanzano, però va rifatto lì. Questo non si sapeva, tra l'altro, almeno io non la sapevo, è ottimo. Però i misteri, e quindi... Però, abbiate pazienza, ora, non so se voi vi siete stati da ora in poi, che le giornate sono più lunghe, andate un giorno a fare una passeggiata allo stadio. È una palestra a cielo aperto. Ora, si parlava di Montevarchinità, e è giusto, calcio, basket, ciclismo, ci sono due società podistiche, ma è giusto che tutti abbiano il suo spazio. Il mio pensiero è, se riescono a mettere a posto queste società, che è giusto che abbiano il loro spazio, può darsi in futuro si incominci a parlare di una struttura nuova. Però ancora c'è troppe cose che si devono mettere a posto. Però uno stadio nuovo lo sogno da tanto. E riallacciandoci al discorso che facevi prima, proprio in relazione anche agli anni 80 o comunque anni 90, quando lo stadio era super frequentato, considerando che ovviamente a Montevarchi comunque l'attività calcistica all'Aquila in particolare è quella a livello sportivo che raduna il maggior numero di persone, perché o quali sono state le dinamiche storiche, sociali o cittadine, non lo so, secondo te, per il quale appunto il pubblico rispetto a 20 anni fa è nettamente diminuito anche nelle partite di cartello? Perché comunque tu prima ci raccontavi che, mi ricordo, metà anni 80 si faceva 1500 spettatori di media, ora 1500 è grassa se si fanno per i derby, anzi non ce li fanno fare perché appunto le strutture non sono a norma. Beh, la situazione è da ricercare un pochino anche nella società, credo. Non so bene il perché è cambiato le generazioni, anche i figlioli delle persone che andavano... Sì, ora... Questa è una cosa che non saprei, perché effettivamente se si toglie il periodo buio, ci metto anche i primi anni 2000 fino al 2011, più o meno Montevarchi ha sempre fatto categorie, insomma, di serie C, serie D, serie C, che anche la serie D fatta 35 anni fa era una serie D che questa di ora non ha niente a che vedere, ecco, nel senso. E non so, però so per certo che tutti alla sera quando gioca il Montevarchi chiedano sempre che ha fatto il Montevarchi. So convinto che tutti a Montevarchi in casa hanno perlomeno una sciarpa, una bandiera di Montevarchi. E sì, una volta nelle partite di cartello, ecco, si poteva fare anche 3.000-3.500 persone. Oggi nelle partite di cartello parli di 1.500 persone, ecco. O forzato o no per via dello stadio, però va molta meno gente, sì. Probabilmente è da ricercare nella società, ecco, fare un discorso un attimino più ampio, questo sì. Sì, anche perché comunque, Fumino, effettivamente è vero che ci sono stati anni bui che possono aver fatto disinnamorare le persone, però contemporaneamente il calo o comunque il crollo dei tifosi allo stadio è nazionale, anche riguardante alti livelli, la Serie A stessa. Assolutamente sì, e quindi è una cosa che ha riguardato tifoserie ben più grandi rispetto a Montevarchi, di società che fanno la Serie A da tanti anni, che hanno avuto un calo, e anche a Montevarchi è successo questo. Forse perché ha chiuso la discoteca in cui andavamo dopo la fine delle partite e la domenica pomeriggio, però non lo so, ma e quindi i ragazzi di oggi hanno ben altri svaghi. Beh, c'è il mercato di Forte dei Marmi spesso e magari può attirare allo stesso livello. Il mercato del Forte, il nostro regista di stasera ha gli alberi degli zoccoli, e quindi anche quello vende gli zoccoli nel mercato di Forte dei Marmi, è un po' calato. E quindi, Dimitri, pensando anche a quante persone potrebbero andare allo stadio in più rispetto a quante ce ne vanno, secondo te, se ad esempio la campagna abbonamenti fosse condotta in maniera più popolare, vale a dire rinunciando magari a 10-20 euro ad abbonamento, ma ad avere 100-200 abbonamenti di più, potrebbe essere un motivo di maggiore ispirazione anche solo per i calciatori, che è logico, avendo magari 200-300 abbonati in più, ogni domenica magari c'è 100 persone in più e quindi un calciatore dà di più. Siamo sicuri che abbassando gli abbonamenti c'è più pubblico allo stadio? Non lo so, questo era proprio per teorizzare. No, perché no? Io, insomma, questa storia di Lecce fu fatto un esempio, insomma, qualche anno fa, insomma, anche su Facebook c'era qualcheduno, qualche amico ciò, che fece proprio questo esempio di Lecce, l'abbonamento credo a 25 euro, ma ragazzi, ma in curva a Lecce ce ne entra 4.000. Poi, insomma, si parla di Lecce, tutta un'altra realtà. Poi Lecce, quando fu fatto questo esempio, era appena sceso dalla B alla C, cioè aveva bisogno un attimino di recuperare il pubblico, perché lì erano cazzati neri. Qui a Montevarchi a volte passo anche da polemico. Io, ecco, ora in curva quanto costa l'abbonamento? Mi sembra che quest'anno sia costato intorno a 90 euro. A 90 euro, sì, che verrebbe 190, verrebbe quanto a partita? In casa quante partite sono? 15? 16? Sono tipo 18-19 partite con due partite in cui si paga il biglietto. In cui, insomma, il prezzo, insomma, io insomma capisco anche qualcuno, ecco, c'è anche tanta crisi che la gente non lavora e magari tirare fuori subito 100 euro, 90 euro potrebbe essere anche un problema. C'è da capire anche queste persone, ecco. Però per quanto riguarda in curva, credo siamo, insomma, abbastanza, ecco. Tu fai conto, in tribuna aperta l'anno scorso, secondo me, c'è stato un rincarino, ecco, di 40%, ecco, che non è poco. Non è poco. Io ora vado in tribuna aperta per dei problemi c'ho, ecco, con mio babbo, che non posso lasciare solo. Questa politica di spendere meno, cioè di fare meno l'abbonamento e di cercare di avere più pubblico allo stadio, sì, perché non so se poi c'è la sicurezza che effettivamente, ecco, la piazza poi risponde, ecco. Quello che non concepisco a volte sono quelle giornate rosso-blu, secondo me inadeguate, nel senso in dei periodi o in delle partite che, insomma, se ne potrebbe anche fare a meno. Io capisco anche la società che qualche volta ha bisogno di una boccatina d'ossigeno, non so, però ecco, per esempio ci fu quando si era in seconda categoria, mi sembra, c'era il big match che non era Montevarchi-Cararese, Montevarchi-Massese, era Montevarchi-Ambra. E la società pensò di fare la giornata rosso-blu. Ora noi si era in testa, però ecco, io dissi su Facebook, il mio amico Gerardo Iannelli mi riprese, non c'era bisogno di fare la giornata rosso-blu con l'Ambra. Ecco, io a fare le giornate rosso-blu avrei aspettato qualche anno, ecco, per esempio ora, siamo ora, ecco, magari si è passato, ecco, dei campionati e proprio non c'era bisogno, ecco. Hai portato avanti un discorso molto recente, vale a dire l'Ambra, affrontata in prima categoria, sì, ecco, era prima 3-4 anni fa, sì, sì. Ma per come ti ricordi tu negli anni 80-90 il tifo a Montevarchi e il rapporto fra il tifo e la società a Montevarchi negli anni 90 come era rispetto a quella di oggi? Posso parlare da quando più o meno ho incominciato a fare attivamente, ecco, delle attività, ecco, nella curva, diciamo, nel senso di primi anni 90. 89-90 fu lo spartitraffico tra la vecchia generazione, diciamo, e la nuova, quella di, no, quella di oggi, quella prima di oggi, cioè io. Negli anni 80, no, rapporti a livello società curva parli, non è che c'era tanti rapporti, ecco. I rapporti si sono cominciati a fare un attimino più stretti, ecco, negli anni 90, ecco, negli anni 90 sì, c'è stato dei collegamenti, c'è stato delle collaborazioni a livello di curva, a livello di società insieme, ecco, per poi arrivare un pochino al discorso dei primi anni 2000, lì il discorso fu un pochino più, un attimino più, si cominciò ad andare male, si parlava di già, ecco, di anni che dovevamo ancora affrontare bui, e sì che, insomma, i rapporti lì si freddarono. Oggigiorno credo io, ecco, non fa più parte della curva oppure di direttiva, io oggigiorno credo, ecco, se non è di collaborazione, però ecco, è un rapporto normale, ecco. Gli anni 90 sì, c'era collaborazione, sì, basti pensare che il terzo brigate rosso-blu, lo striscione terzo brigate rosso-blu, quello tanto per intendersi in PVC, lì una parte ce lo pagò il Montevarchi Calcio. Ultragiglio anche ci dettero qualcosa, parlo di quello in PVC. E sì, insomma, c'era, ecco, questi rapporti con le trasferte che magari a volte le compagnie dei pullman non si fidavano tanto di chi ci metteva la faccia tra gli ultras, e invece, ecco, c'era qualcuno della società che faceva, ecco, come tramite e Pulma si trovavano come per incantesimo. I rapporti sono stati questi, ecco, nei rapporti più stretti, ripeto, ecco, con la società, ecco, forse negli anni 90, ecco, perché insomma lì ci fu una bella storia, ecco. Retrocessi dalla C1 nel 90, nell'estate dei 90, poi ci fu quel campionato di mezzo, partimmo a fari altissimi, si fece una squadra da capogiro e si retrocesse allo spareggia Empoli, il secondo spareggia Empoli con il Cecina. E poi da lì, il campionato dopo, con Rino Lavezzini, con Marchetti, poi per arrivare a Braglia, si tornò in C1 e allora insomma anche l'atmosfera tra i tifosi era più, insomma, era molto più tranquilla, di collaborazione, diciamo. E tra l'altro ora ci parlavi e citavi gli Ultra Giglio, le Brigate Rossoblu, che erano vecchi gruppi, perché oramai in curva si parla solo di Curva Sud. Sì. Te eri parte attivo degli Ultra Giglio, se non erro? La seconda generazione. Nella seconda generazione, però comunque eri presente, forse non ancora attivo, quando nell'88, se non erro, prima della partita con la Massese, furono fondati gli Ultra Giglio, no? Con lo striscione. E siccome abbiamo ospitato alcuni che hanno fatto parte delle Brigate, ma in un certo senso la storia degli Ultra Giglio non l'abbiamo mai sentita, raccontaci un po' di com'era, anche se te eri nella seconda generazione, cioè qual era la caratteristica, le particolarità degli Ultra Giglio? La prima apparizione Ultra Giglio fu il 5 maggio dell'88, Montevarchi Cararese 0-0, e la Cararese vinse il campionato a Montevarchi, qui, che fu un campionato entusiasmante, insomma quasi quasi si stava perdendo, perché si andò a Siena a febbraio, si era a più 5 dai Siena, che allora era secondo. Ricordo c'erano i due punti con i Vittorias, che insomma, no, si era a più 7 e era un bel vantaggio. Riuscimmo a farci mangiare tutto per arrivare allo Spareggio Empoli. La prima apparizione fu il 5 maggio, poi il 12 giugno. Ecco, gli Ultra Giglio, il quartiere Giglio è sempre stato parte fondamentale, in prima, insomma. C'è sempre stata una buona cultura di tifo e diciamo per larga parte della storia, ecco, il quartiere Giglio è stato insomma fondamentale. Ultra Giglio nacque una sera, una riunione al vecchio Bar Giglio, era il campionato 87-88, sì, il campionato lì, dopo una riunione in cui si decise, ecco, di... c'erano già le brigate, perché l'origine delle brigate venne dai Pestello, altro quartiere in passato, ora mi dispiace un po' meno, però in passato anche il quartiere Pestello era un buon quartiere a livello di ultras, e le brigate vennero lì. Mi hanno sempre raccontato, e Marco Ciapoi, non so se voi lo conoscete, la B di primo striscione brigate fu fatta in camera sua, la B, con la vernice, ma un discorso fatto bene, mia... si decise appunto, tornando agli Ultra Giglio, di fare un gruppo, ecco, no? Ecco, sempre gli stessi cani sciolti, ecco, di riunirsi tutti, ecco, in questo gruppo qui, Ultra Giglio, che rendeva un pochino con lettere apparentemente originali. Poi in un certo momento ho saputo che in Inghilterra c'era una scritta con le stesse lettere, mi sembra, dei tifosi del Liverpool. Ci fu una riunione, ecco, da lì nacque questo gruppo, ecco. E appunto, agganciandomi a questo discorso degli Ultra Giglio, ma del tifo in genere, o comunque dell'organizzazione del tifo in genere, rispetto a quando tu eri appunto un ventenne a oggi, che differenze trovi nel modo di fare tifo in seguito o seguendo una squadra di calcio? Beh, oggigiorno insomma è molto più organizzato, c'è un direttivo, c'è un'organizzazione, ecco, solida. Negli anni 80 era un po' più improvvisata la cosa, ecco. Sebbene le vecchie brigate derivano dall'84, secondo me è anche prima, dall'83, però ormai il marchio è quello. Lo striscione comunque fu fatto dopo, nel senso, a quei tempi lì diciamo che era un po' tutto improvvisato, sì. C'erano, non so se si può fare nomi, no, perché tanto ecco c'era il mio amico Davide Fioravanti che reggeva un po' insomma, le sorti della curva, c'era Marco Ciapoi, ecco, c'era tutta questa gente ecco, che mandava avanti questo discorso. No, però ecco, oggigiorno è molto più organizzato, ecco, diciamo dal 90 ci fu un periodo di stallo, poi insomma noi si è preso un po' le macerie dei vecchi ultras, si ricominciò un po' da capo, ecco, si era molto più giovani, ecco. Nel 93, insomma, tanto pendente, avevo 18 anni, sì, ecco, insomma, basti pensare che, ecco, io da fonti che ho, insomma, sì, la tifoseria montevarchina è un po' rispettata in tutte le parti d'Italia in cui siamo stati a giocare, considerandoci una tifoseria all'avanguardia, ecco, nel senso che ormai c'ha un nome, c'ha una storia. C'ha anche una vasta rete di amicizie, c'ha una vasta rete sparse amicizie, certo, in tutta Italia, per cui fra Empoli, che è il nostro gemellaggio storico e di cui ti vorrei chiedere appunto, siccome il gemellaggio di Empoli è arrivato nell'88, sì, è iniziato nell'88, a seguito di quello spareggio contro la Massese giocato ad Empoli, se tu ti ricordi qualcosa in particolare rispetto a questo gemellaggio? Il gemellaggio con l'Empoli è nato nell'89. Nell'89, prima di Montevarchi-Empoli, una partita qui a Montevarchi in C1, ecco, in quell'anno lì. L'anno dello spareggio, secondo me no. Secondo me non c'erano contatti, io ecco parlo. Non c'erano contatti, però in quell'anno ci furono i primi avvicinamenti. E poi l'anno dopo. Sì, forse sì, i primi avvicinamenti, ecco, però ecco proprio il gemellaggio con tanto di partita ultras che fu fatta qui e a Empoli. Cioè io lì ecco era ancora un ragazzino, ecco. Però ecco, diciamo il primo gemellaggio, il secondo, via. Se si vuole parlare di gemellaggi, perché il primo fu fatto a Chioggia con il Suzzara. Quello fu un gemellaggio quasi spontaneo, ecco. Parlando di gemellaggio, ecco. Però ecco, una forte amicizia, un legame che oggigiorno purtroppo ci siamo persi per loro. Perché loro è tanti anni che non fanno categorie in cui non ci si ritrova più. Però ecco, la prima amicizia fu con quei ragazzi lì, ecco, con quei ragazzi di Suzzara, il 2 giugno dell'84. 2 giugno 84 a Chioggia per la finale di Coppa Italia. E comunque Dimitri, come ci hai detto, hai seguito il Montevarchi per tanti anni, la tua esperienza abbraccia differenti decenni. E chiaramente hai vissuto gli anni della C1 e sono stati gli anni pieni di derby di campanile. Poi siamo in Toscana, c'era Livorno, Massese, Carrarese, Arezzo. Recentemente siamo tornati a fare dei derby diversi rispetto a quelli che abbiamo fatto negli anni scorsi con l'Ambra o con la Traiana. Siamo tornati a giocare ad esempio con la San Giovannese. Quindi quanto è stato ed è importante anche per la tifoseria montevarchina, è stato importante per la tifoseria montevarchina fare dei derby di campanile con tifoserie toscane anche più grosse e doversi trovare a competere? E poi secondo te qual è il vero derby? Perché comunque in ogni caso abbiamo parlato con altri tifosi e c'è effettivamente anche un modo diverso secondo me di vivere il derby con l'Arezzo rispetto ai derby con il San Giovanni, proprio nella tifoseria, almeno io così ho osservato nei pochi derby con l'Arezzo che ho visto, tra l'altro, rispetto a quello di San Giovanni che non ho visto di più. Quindi qual è secondo te il vero derby e quanto sono stati importanti i derby di campanile negli anni della C1? Tanto per sgomberare ogni dubbio, il derby è il derby di Valdarno. Il derby di Valdarno ce n'è uno, è quello San Giovannese. Il derby è Montevarchi-San Giovannese. Questo per essere chiari, che è quasi una stracittadina, quasi, perché insomma tra 50 anni, se ci saremo sempre, dubito, insomma. Speriamo. No, vabbè, insomma, sì, ancora potrebbe essere un'età che ci può essere, non so come, però ecco. La medicina no. Fa passi da gigante. Ecco, no, il derby, dicevo, è con la San Giovannese. Questo è la storia, ecco, insomma, che lo dice senza ombra di dubbio. Dunque, quando cominciai io a seguire i Montevarchi, ecco, si veniva dall'ultimo derby giocato in Serie D, che li vincemmo entrambi, e quella fu l'ultima volta che si fece doppietta. A Montevarchi si vinse 3-0 e a San Giovanni 1-0. Loro retrocessero e noi si arrivò secondi, terzi. E poi da lì ci siamo rivisti nel 2000, però il mio discorso era le generazioni che hanno cominciato metà anni 80, 90, avanti 2000, ecco, insomma, della San Giovannese non ce n'era traccia, nel senso nei pensieri dei tifosi, perché noi si è sempre fatto campionati a livello di Serie C, C1, C2, C1, C2, male ti andava, tu retrocedevi, ma in C2, poi si tornava in C1, loro facevano la promozione, ecco, nel senso, e posso capire qualcuno ancora oggi che di quegli anni lì, i derby noi nel 80, 88, 89 e 90 si facevano, capito, sempre con l'Arezzo, si retrocesse sì, nel 90 dalla C1 alla C2, comunque ogni estate si rifaceva i derby in Coppa Italia, perché loro erano in C1 e noi si era in C2. Poi ci si ribaltò il discorso, noi in C1, loro chiusero, fallirono e risalirono, noi si era in C1 e loro facevano una categoria sotto. Il derby era questo, la squadra più vicina era con l'Arezzo. Andare a giocare Arezzo si è sempre fatto, insomma, delle trasferte importanti, ecco, anche a livello in Coppa Italia, sebbene fosse stato agosto, o con Pullman, con il treno, siamo sempre andati in tanti, e loro anche qui, loro sono sempre venuti in tanti. E sì che, dicevo, posso capire anche un tifoso di quegli anni lì, che se tu gli dici oggi il vero derby qual è? Il vero derby è con l'Arezzo. Anche secondo me fanno anche i paragoni anche a livello di tifoseria. Ora noi onestamente, ecco, siamo a cose normali, ecco, insomma, loro sono una tifoseria un attimino più esperta, ecco, hanno anche calcato categorie anche importanti, sebbene le generazioni siano cambiate anche là. E però dal 2000 in poi è sempre stato il derby con la San Giovannese, ecco. Tu ti potevi rincontrare un pochino anche con l'Arezzo, ma secondo me il vero derby della storia è con la San Giovannese. Poi si è fatto campionati di Serie C, se tu mi dici Prato, Siena, Carrarese, Grosseto, Massese, ne so, Pispisa, sì, però ecco, son derby, ma sfide di campanile, diciamo, ecco, sempre toscane. Tra l'altro mi preme sempre ricordare volentieri, si parlava prima di questa stagione conclusa, per me e penso anche per te l'apice di questa stagione è stato tornare a fare il derby a San Giovanni e vincerlo. E vincere 2-0. Certo, no, secondo me è stata una delle gioie più grosse, secondo me, da quando seguimo De Vacchi, perché ecco... Anche perché negli anni precedenti di C2 si sono persi praticamente tutti, sì, a parte due. Si sono persi tutti a parte due, ecco. Appunto, agganciandomi a questi ricordi di derby passati e anche più vicini, come quelli di questo anno contro la San Giovannese, ma derby contro l'Arezzo, magari anche contro altre squadre toscane, e quindi derby di campanile. Dimitri, se allo stadio secondo te ci fosse un posto in dove raccogliere, una specie di museo, i cimeli, i ricordi e tutto quanto, potrebbe servire per le future generazioni ad iniziare ad apprezzare i colori rosso-blu e ad apprezzare il gioco del calcio, e quindi di venire a Montevarchi a vedere la partita piuttosto che andare magari a Firenze. Montevarchi, ecco, ora non ha la storia, ecco, di Fiorentina o... Però ecco, Montevarchi senza dubbio ha una storia importante, che se si facesse un museo, insomma, sarebbe quasi di diritto fare, ecco, un museo, perché ha talmente tanta roba, tante maglie, tanti cimeli, tante storie da raccontare, ecco, da mettere, da racchiudere certamente in un museo, ecco. E insomma, la storia, il Montevarchi Calcio secondo me è parte importante, attiva della città, ecco, nel senso, sì, c'è il museo di Cassero, c'è il museo paleontologico, ecco, ecco, per il futuro, ecco, siccome anche quella è storia, storia sportiva, storia calcistica, ecco, sarebbe da racchiudere, ecco, in un biglietto tra stadio, tutti i musei, e anche far vedere, ora, i turisti a Montevarchi, ecco, nel senso, far conoscere la storia anche del calcio a Montevarchi. Di turisti a Montevarchi alla fine ce ne sono, anche per altri motivi, però il turismo calcistico è una specie di turismo che è molto in auge. Io stesso, quando vado in giro nelle città in Europa o dove mi capita, è molto difficile che torni a casa senza essere andato a vedere lo stadio o magari il museo della squadra di calcio dove sono. Ora, magari si parla, è vero, di squadre che fanno la massima serie nei loro campionati, però siccome il turismo qua ce n'è, probabilmente sarebbe interessante aggiungere al pacchetto delle cose da vedere anche quelle che riguardano il Montevarchi. Che poi, tra l'altro, io voglio fare una precisazione, da noi si parla così, si svaluta anche probabilmente, ma il Montevarchi Aquila è la società più antica della Toscana. A me mi viene in mente la decima in Italia. E a me mi viene in mente il libro del centenario, lo sfogliavo oggi, tra l'altro, anche semplicemente mi veniva in mente, mentre lo dicevi te, fare delle schede permanenti che riportino una parte fotografica, una parte testuale, anche divisa per decenni. Già il libro sostanzialmente, che è un bel tomo, comunque raccoglierebbe già una bella base sulla quale potrebbe anche essere facile fare un riassunto. In più, beh, ci sa la famosa Coppa Italia, l'unico trofeo, però quella c'è da esporre, ci sono le maglie. Te, tra l'altro, aiutasti il nostro Stefano Neri proprio qui in Galleria San Lorenzo a fare una mostra di maglie storiche. Nel senso, c'è anche i materiali ultras e i vecchi striscioni, quindi cioè, sostanzialmente non è proprio una cosa campata in aria. Comunque, ripeto, si parla della società più antica della Toscana, quindi potrebbe avere un senso, anzi non necessariamente bisogna andare sempre al museo di Barcellona o a quello di Coverciano, magari è anche carino andare a vedere una cosa diversa, più piccola, se si capita qui. La Toscana calcisticamente è una terra importante, fatta di campanile. Noi si è sempre fatto grandi battaglie con Carrarese, Massese, ecco, diciamo, ecco, se tornasse, ma anche ora, nel senso, Montevarchi anche in Serie D, diciamo, è considerata, credo, come noi consideravamo quando si era in C1, arrivava il Vicenza, il Modena. Ecco, noi, ecco, nel nostro piccolo siamo considerati, ecco, una società di grandi tradizioni, un brasone. Averci un museo in cui gli ospiti ogni domenica vengono a visitare potrebbe essere un'ulteriore constatazione dell'importanza che dà Montevarchi, ecco, all'esterno, diciamo, ecco. E allora andiamo a girare il coltello nella piaga, perché là dove la piaga è viva a me piace un po' andare a girare il coltello, anche perché io sono uno pieno di piaghe e mi girano i coltelli di continuamente addosso, ma insomma questa è un'altra storia. E allora facciamo una bella richiesta alla città: dateci un museo, dateci un posto dove la nostra storia possa essere condivisa e visitata anche da chi non è di questo posto, perché un museo non è mica fatto per chi è del posto, perché noi del posto lo sappiamo qual è la nostra storia, sappiamo benissimo da dove arriviamo. Però chi viene che non ci conosce proprio così bene, forse sarebbe preferibile che riuscisse a conoscerci meglio, appunto, tramite un museo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, alcuni programmi politici in passato avevano già tirato fuori questa idea. Poi, che fosse solo una cosa detta per prendere due voti è un conto, ma che fosse una cosa detta perché effettivamente fosse fattibile è un altro. Tra l'altro, in un'epoca dove si piange miseria, anche giustamente, di tutti i musei che si può fare a Montevarchi, quello del Montevarchi Calcio sarebbe anche più economico da costruire, perché eccetta la struttura e comunque lo stadio potrebbe avere su spazi, tutto quello che sarebbe necessario esporre più o meno è già reperibile, piuttosto che continuare a promettere sopra la maglia rosso-blu e quindi utilizzare il Montevarchi Calcio per consensi, si potrebbe anche concretizzare la cosa e basta sentire tre o quattro persone, perché comunque di collezionisti e appassionati mi viene in mente anche il nostro Massimo Anselmi come fotografo, per poter riempire una o due stanze ce l'abbiamo, ci sarebbero, sarebbe possibile. Montevarchi sarebbe in grado di fare una mostra permanente di suoi cimeli, suoi ricordi e di sua presentazione alla città. Alla fine è abbastanza vergognoso che tutto questo venga solo messo in ballo per meri scopi politici. Sì, ora io ho rizzato questa cosa un po' di museo, ora non pensavo che voi fossi inververiti così, ecco. Però ecco, io partirei dall'inizio, nel senso, avanti di fare una campagna elettorale, diciamo, pro museo, ecco, incomincerei secondo me una campagna elettorale pro stadio. Sebbene, ripeto, e tutte le società sportive a Montevarchini è giusto che abbiano il loro spazio, però oggigiorno lo stadio secondo me è passato il discorso atletica, ciclismo e tutte, secondo me lo stadio, secondo me, è calcio. Ecco, io partirei dallo stadio, poi il museo successivamente, con uno stadio all'altezza, ecco, una stanza magari, ecco, per il museo si può anche trovare, ecco. Secondo me, ecco, sarebbe l'ora, prima di museo, fare lo stadio nuovo. Uno stadio per Montevarchi che, ripeto, non deve essere obbligatoriamente uno Juventus Stadium o una Dacia Arena, ecco, dove dire. Però ecco, Juventus Stadium della Serie D. Ecco, dai, un sì, Juventus Stadium, sì, della Serie D, ecco, però ecco, se si facesse lo stadio, ora non so io i rapporti tra società e comune come sono, so c'è delle voci, si stanno incontrando, ecco, perché effettivamente le strutture, ecco, per dare una mano, si parlava di un sintetico non allo stadio, all'antistadio. Se si sbloccasse questa situazione dello stadio e lo dessero alla società, lo stadio servirebbe anche per tanti nuovi introiti, perché secondo me per andare avanti una società calcistica a questi livelli, partendo dal presupposto dello stadio nuovo, lo stadio per me dato in mano all'Aquila è, nel senso, lo stadio è suo, lo stadio non deve chiudere a maggio e riaprire a settembre. Innanzitutto con una struttura nuova ci potresti fare 4-5 spogliatoi, in estate fare triangolari, quadrangolari a livello importante, che arriva gente dai di fuori, concerti, tutto in gestione all'Aquila, cioè cercare di trovare nuovi introiti per l'Aquila. Questo secondo me è il futuro del Montevarchi Calcio. Nella situazione attuale si va poco avanti. Sebbene ci sia una società importante con gente seria che ci mette l'anima, e non è scontato, perché c'è tante piazze anche più, insomma, blasonate rispetto a Montevarchi, che stanno arrancando da anni in Serie D, in eccellenza, con delle società un anno poi chiudano, poi rincominciano, ecco, diciamo che Montevarchi è un'isola felice, il ferro è caldo. Speriamo con l'amministrazione che riescano a fare un bel discorso. Ma io, se posso dire la mia opinione al riguardo, a parte la questione dei concerti che è illuminante, non ci avevo mai pensato. Magari torna pure Vasco Rossi a Montevarchi. E perché no? I figlioli, diciamo, dai. Magari. No, e comunque a prescindere da questo, io credo che, visto che spesso in Italia, parlo generalmente, appare tutto così immobile, visto che il ferro è caldo e va battuto quando è caldo, come dici te, sia anche lecito lasciarsi anche un po' andare, come abbiamo fatto noi, a miraggi, sogni o prospettive, per quanto magari irrealizzabili a livello gigantesco, però in piccolo tutto è fattibile. E a spararle, ma no, insomma, ecco. Tra l'altro mi verrebbe in mente il museo dell'Aquila, perché no, noi del volo dell'Aquila ci potremmo anche prendere l'onere di coordinarlo, non dico di gestirlo. No. E tra l'altro non dimentichiamoci che una delle foto che più ha girato nei canali social, che sono i musei moderni sostanzialmente, ma a noi ci piace l'analogico, quindi vorremmo anche un museo fatto di due stanze, non dico una ma due. Comunque la foto che più ha girato in questo dicembre ultimo scorso è stata appunto la foto delle persone di Montevarchi che si facevano fotografare insieme alla Coppa Italia del 1984. Cosa che abbiamo fatto anche noi quando abbiamo registrato la puntata in serale all'Aquila Store. La prima cosa che si è fatto, siamo fatti la foto della Coppa Italia. Beh, non c'è solo la Coppa Italia dell'84, Cioè anche ultimamente si è vinto la Supercoppa di Lega. In senso, sono cose quelle che comunque rimangono, ecco. La storia dei Montevarchi, ecco. C'è Fumino prima diceva gli anni della Serie C a Montevarchi. No, guarda che Montevarchi, la Serie C, siccome si parla da qualche giorno di una società principe in Val d'Arno, che non so chi sia, se si parla di società principe, Montevarchi la Serie C l'ha fatta negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50, qualcheduno tra i 43 e i 46 si è fermato, c'è un buco, noi no, si è sempre giocato. L'ha fatta la Serie C negli anni 50, negli anni 70, 80, 90, 2000. Montevarchi è questo, cioè quando si parla calcisticamente di Montevarchi si parla di Serie C. Ma sa, un conto secondo me è definirsi padroni del Val d'Arno, è un conto poi è esserlo nei fatti, è un po' come quello insomma che il bar racconta da tante donne e poi magari è quello in a meno, insomma, voglio dire, a qualcuno gli piace parlare, a qualcun altro gli piace fare, no? E poi magari le donne già sono zoccole, qui abbiamo il regista gli zoccoli. Comunque siamo veramente in dirittura d'arrivo, probabilmente abbiamo anche sforato, però stasera Dimitri è stato veramente piacevole, è stato un piacere, poi abbiamo raccontato e parlato a ruota libera più o meno di tutto, quindi è stato veramente un piacere averti qui come ospite, ti va bene Fumino? Sì, non abbiamo la domanda di rito per i tifosi, visto che ce l'abbiamo per i calciatori o gli allenatori ex o in gioco ancora. Scusate, un piccolo aneddoto, il secondo Brigate Rossoblù, quello sempre in panno, fu deciso da me e Riccardo su un muricciolo d'estate a Follonica, perché il primo, quello storico primo che veniva dai Pestello, venne bruciato mezzo allo spareggio di Empoli, il secondo col Cecina, e una sera passeggiando per Follonica io e mio amico Riccardo Volpi, che siamo cresciuti insieme, decidemmo, perché no, dissi, guarda, rifacciamo lo striscione. Soldi non ce n'erano, però ecco, si riuscì tramite anche Paolo, un amico, il fratello di Luca Cappelli di Badigiglio, ci procurò la stoffa, si comprò la stoffa. Il secondo striscione così fu deciso su un moricciolo a Follonia. E poi, dopo tre giornate che si portava allo stadio, ci si accorse che avevamo sbagliato. Cioè, lo striscione era capovolto, si era messo prima il blu e sotto il rosso. E disse, Riccardo, si è fatto una cassata, non ci siamo accorti di questa sbaglio qui. Blu e rosso sotto. Però, insomma, fu una bella cosa. Anche quello tutto fatto a mano, ma fatto per bene. Ecco. Beh, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Io ti ringrazio, Dimitri, anche per questo secondo segreto, mistero, che il volo dell'Aquila scioglie. E quindi ha sciolto pure il mistero del secondo striscione delle Brigate Rosso-Blu. Però siamo veramente arrivati alla fine. Io sarei volentieri a registrare ancora un'altra puntata con te, perché i tuoi racconti sono veramente interessanti e molto divertenti. Tra l'altro, però, è arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori di Radio Big World. Grazie per averci ascoltato. Saluto e ringrazio come sempre il mio compagno alla ricerca della Montevarchinità, ovvero Julian Carax. Grazie Fumino, grazie anche al nostro regista Ermanno Olmi e grazie a te Dimitri. Grazie a voi, grazie per l'invito. Ringraziamo anche Stefano Neri che ci dà in concessione gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi, via Isidoro 81. Come sempre, se volete venire a partecipare come pubblico alle nostre registrazioni, noi siamo qua, chiunque può venire. vi ringrazio e ringrazio ancora una volta Dimitri. Vi do appuntamento alla prossima puntata con Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Grazie. Buonanotte. Sergio Leone è morto. Sergio Leone è morto? No. Da poco è morto. Ah sì? Sarà 20 anni, ma anche 30. Sergio Leone. No, scusa, mi sbaglio con Franco Nero. Che lo saprei, Franco Nero mi sa che è ancora vivo. Franco Nero faceva un era il film di DiCaprio. No, ora mi sono sbagliato, mi sono confuso. Sergio Leone. Di Giacomo, pallatore. Sì, che faceva un cameo, perché lui da giovane faceva il film western e allora Giacomo. Stasera, con una bella mancanza di rispetto, dice l'albero delle zoccole. Sta attento, ti aschi la grappa. Però la penultima, però, si potrebbe fare San Giovannese, deve essere tutto. Una riunione tra. Mi potrebbe fare una gag, ci si dà. Magari ci si dà. Sera a ballare Arezzo a Indicatore, a proposito di zoccoli, lì è pieno, alla luna, non so se... Si è fatto 5 anni di superiore insieme, 5 anni compagni di banco, 5 anni che si faceva la bacheca in classe e si teneva la classifica all'epoca, la San Giovanni si faceva la promozione, noi la Serie C, si faceva la schedina, la schedina di C1. È capace di tutto questo rodere, tu gliel'abbiamo inventato fino a quell'anno. Io e Massimo siamo davvero amicissimi, Ponticino. Che ha fumato la droga e gli è venuto il malore. Sa se senti anche male, non ho visto ste. E che vive in stato di poligamia, sì. Guarda. Moglie e amante nella solita casa, alla grande, il primo arabo, l'arabo aretino. Queste donne zitte. Si vede buono. E tanti l'ha lasciati qui. A me no, però insomma tanti l'ha lasciati. A 20 metri da qui. Che cosa è cambiato nel calcio o nella società, tanto che le persone comunque allo stadio ci vanno meno. Vai. Chi parla? Sì, no, te la devo rifare perché lui è il regista, però è fuori campo. Ah, non c'è in diretta? No, lui suggerisce. Diceva, la domanda. Finita la grazia. Aspetta, ti fa la domanda. Aspetta, ho da pusciare anche io. Allora sei vai. Facendo una falsa. Ah, tu c'hai un secchio? Sì, c'è lo sciacquo alla vecchia. Un po' moderna, una volta c'era proprio tipo il buo, ora no. Qui si piscia in eccesso, però ti ha buttato l'acqua. Il secchio è di Chupa Chups. Via, un secchio cinese, sì, da due soldi. Se uno gli scappa una sciorta, che cazzo fa? Va fuori. C'è tutti i violi di via Roma. Questo ragazzo è bravo. Ci mise in diretta già. Hanno preso questo ragazzo Gianni Vietti, guarda. Che è bravo. Sta davanti a casa mia. Cioè, porta è mia. È disponibile, a fa tutto, nel senso, insomma, anzi Gianni tanta roba. No, Gianni anche quando si registrò da Natale si fece la puntata su Busoni, ci aprirono l'Aquila Store, si fece lì dentro, fu bellino, fu una serata divertente. Anche questa storia dell'Aquila Store fu una cosa fatta bene, insomma purtroppo questo è... sono ambienti che tu poi sei aperto sempre. No. Che vedi museo? È l'idea? L'idea! che sarebbe bella. Ce l'ha anche ultimamente anche la Rezzola. Il museo, se rifacessero lo stadio e la tribuna tu la butti giù, tu potresti fare il nuovo stadio dentro questo. Questo. Capito? E questo si mette fuori, però dopo questa puntata ci chiudono. Giochiamocela! Sì, si gioca! Però ecco, o bene bene o male male. Però, ecco, io partirei dalla base, ecco. Il museo sì, ora però. Ma no, però è quello dei Spencer in fondo. Noi siamo ecco. Vai. Ma scusa, l'albero degli zoccoli, l'albero degli zoccoli! Ma l'albero delle zoccole! E questo andrebbe chiesto a Olmi, ma. C'è qualche casa qui, insomma, in via Marzia. Che non solo.